Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. A tutti buona giornata. Parliamo di un tema oggi del quale abbiamo parlato anche nel corso del giornale radio, le novità introdotte dalla nuova legge di stabilità, almeno quelle novità che verrebbero introdotte se la nuova legge di stabilità venisse confermata nell'iter parlamentare per come l'abbiamo conosciuta in questi giorni. In realtà si profilano delle corpose introduzioni di interventi, delle corpose marce indietro. Avete sentito anche le proposte che sono state presentate questa mattina dal PDL, e in ogni caso nella formula in cui l'abbiamo conosciuta, secondo quello che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, si tratta di una serie piuttosto importante di interventi che andranno ad incidere non poco sulle scelte delle famiglie italiane. Ciò che fa più discutere, l'abbiamo già visto in diverse puntate di Salva Danaio, è il progetto relativo ai tetti per gli sconti fiscali. Ci saranno dei nuovi paletti, dei limiti per detrazioni e deduzioni, il che potrà anche scoraggiare in qualche caso gli italiani nell'intraprendere alcuni investimenti, nel sostenere alcune spese. È un caso sicuramente molto importante, quello dell'investimento immobiliare, che porta con sé direttamente nel 90% dei casi anche la sottoscrizione di un mutuo. Ogni anno 3 milioni e 800 mila italiani richiedono una detrazione fiscale legata agli interessi passivi sul mutuo sulla propria casa. Molti di questi verranno colpiti dalle nuove regole introdotte dalla legge di stabilità se venisse confermata appunto dal Parlamento l'ultima bozza del testo, che prevede anche la retroattività all'anno in corso. Gli interessi passivi del mutuo infatti bastano ed avanzano ad esaurire il plafond da 3.000 euro che la legge permetterebbe di portare in detrazione, ottenendo uno sconto massimo da 570 euro l'anno. Chi accende un mutuo quindi, o l'ha acceso, avviato, sottoscritto recentemente, non potrà chiedere altri sconti al fisco. Noi oggi ne parliamo a Salva Danaio rispondendo alle vostre domande, ascoltando il parere dei nostri esperti. Torna con noi questa mattina, lo facciamo sbizzarrire addirittura sul tema fiscale, Roberto Anedda, responsabile marketing di Mutui Online. Buongiorno Roberto, bentornato. Buongiorno, grazie, bentrovato. Ti sarei divertito a preparare le oggi ho visti sul Sole di questi giorni, appunto tabelle di vario genere, proprio per spiegare anche con degli esempi concreti quanto dovranno riorganizzare la propria componente fiscale le famiglie italiane appunto che hanno un mutuo, e quanto dovranno calcolare di minori naturalmente incentivi in base anche ad altre spese sostenute. Massimiliano Sironi, il nostro secondo ospite, presidente della Commissione Diritto Tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Dottor Sironi, buongiorno, ho detto tutto correttamente per quello che riguarda la Commissione di Diritto Tributario, ancora questo incarico? Sì, perfetto, dell'Ordine Nazionale. Buongiorno a tutti. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le domande degli ascoltatori. Potete anche scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Quindi abbiamo terminato la lista della spesa dei nostri indirizzi, non vi possiamo sfuggire. Andiamo a vedere la borsa oggi come si comporta. La ricordiamo rapidamente: in questo momento senza infamia e senza gloria, gli indici si stanno muovendo sulla parità. È stata una mattinata un po' volatile per i listini europei. Sono partiti bene e tentavano di recuperare un po' di quanto avevano perso ieri. Poi ci sono state alcune statistiche, in particolar modo l'indicatore sull'attività manifatturiera europea, l'indice PMI, che è risultato nell'ultima statistica in forte contrazione. L'IFO tedesco, l'indice di fiducia delle imprese tedesche, anche in questo caso in calo per quello che riguarda la rilevazione del mese corrente. E quindi gli indici hanno un po' sbandato a metà mattinata e tutti sono arrivati a perdere anche oltre mezzo punto percentuale. Poi adesso ci stanno ripensando e stanno di nuovo risollevandosi dal picco appunto minimo che avevano toccato. Parigi più 0,35, Francoforte più 0,20, Londra più 0,02, Milano più 0,13%. Un paio di casi di Piazza Affari, STM più 3,31%, qua il mercato è davvero strano. Il gruppo ha presentato i suoi conti stamattina e in apertura di giornata il titolo è stato subito bastonato dagli investitori, perdeva più di 2 punti. Poi ci hanno ripensato, anche in questo caso evidentemente il bilancio è stato letto un po' meglio ed è piaciuto di più. E il titolo addirittura non solo ha recuperato tutto, adesso è il migliore di Piazza Affari. Parmalat più 1,21, Fiat S.P.A. più 1,10, Eni, un buon giudizio degli analisti di Barclays, porta il titolo a salire dello 0,87%, i peggiori Mediaset meno 1,7, il Biscione perdeva più di 3 punti, poco fa ha recuperato anche lui, Prismian meno 1,15, euro su dollaro a 1,29,35. Per la borsa è tutto, noi oggi parliamo di mutui ma affrontiamo le tematiche fiscali legate appunto alla sottoscrizione di un finanziamento per comprare la propria casa. Ottenere un mutuo sta diventando un'impresa sempre più difficile, in qualche caso impossibile, per una famiglia. Da un lato la crisi economica, con l'insicurezza sul piano lavorativo, l'aumento delle imposte e dei prezzi, mette in difficoltà gli italiani. Dall'altro le banche, per gli stessi motivi, diventano sempre più severe nel definire le condizioni necessarie per l'erogazione di un finanziamento. A questo, con la legge di stabilità in arrivo, si aggiungono nuove complicazioni sul fronte del fisco e precisamente degli sconti fiscali. Quella che un tempo chiamavamo manovra finanziaria prevede, stando almeno al testo più recente che ha iniziato l'iter parlamentare, nuovi tetti per deduzioni e detrazioni ed è progettata, oltretutto, per avere valore retroattivo ed andare quindi ad incidere già sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno in corso. Se venisse confermata, gli interessi passivi di un mutuo, nella maggior parte dei casi, sarebbero di per sé sufficienti per esaurire l'ormai famoso plafond di 3.000 euro, la cifra massima consentita da portare in detrazione, ottenendo uno sconto massimo da 570 euro all'anno. Chi accende un mutuo, quindi, o l'ha avviato recentemente, non potrà chiedere altri sconti al fisco e quindi niente agevolazioni per l'assicurazione sulla vita, le spese di istruzione o sport dei figli, per l'affitto di uno studente fuori sede o per le donazioni al no profit. Un bel problema, che potrebbe contribuire a scoraggiare ulteriormente tante famiglie che vedono la richiesta di un mutuo già molto difficile, se non impossibile. Marco Lombardo in questo periodo si sbizzarrisce con la scelta delle colonne sonore che accompagnano la nostra trasmissione. Abbiamo associato il mutuo Roberto Nedda ad una missione impossibile, ad una mission impossible, a prescindere dalle novità fiscali, effettivamente negli ultimi periodi è stato così. Vogliamo aggiornare i nostri ascoltatori su quella che è la tendenza di questo mercato, ancora difficoltà a chiedere il mutuo per la propria casa, per le famiglie italiane, banche ancora rigide? E diciamo che c'è un panorama abbastanza variegato, perché diverse banche italiane hanno ancora una discreta difficoltà a erogare o comunque a cavalcare il mutuo come prodotto di punta, e quindi è mancato allo scenario del mercato un certo numero di operatori. Altri, in misura più o meno maggiore, hanno un po' supplito a questa mancanza, quindi in realtà mutui si riesce a ottenerne, ma è chiaro che i criteri di finanziamento in molti casi sono più stringenti. Ma va anche detto che tutta l'incertezza che la crisi di quest'ultimo anno e mezzo, per non parlare dei tre anni precedenti, anche qualcosa di più, perché siamo partiti dal 2007 con questo otto volante. Esatto, quindi sono ormai più di 5 anni e soprattutto l'ultimo anno e mezzo ha fatto pesare molto sulle famiglie il senso di incertezza economica e quindi ha rallentato molto anche il mercato immobiliare di per sé. Quindi si fanno anche molti meno mutui, siamo intorno alla metà dei mutui che si facevano un anno fa, prima della crisi, proprio per il fatto che in tanti comunque aspettano. Poi anche le statistiche di queste ultime settimane hanno fatto vedere come i prezzi degli immobili stiano lentamente comunque continuando a scendere. Certo, parliamo di pochi punti percentuali, ma sono comunque delle ragioni in più per molti di essere ulteriormente attendisti, cioè di vedere, certo, se magari scende qualcosa in più. Quindi occasioni ce ne sono, c'è effettivamente gente che è un po' alla finestra in attesa di affacciarsi al mutuo, e c'è da dire che nonostante quello che anche in questi mesi spesso si è scritto e detto, i mutui non sono neanche così cari come ci si aspetterebbe, perché i tassi fissi, parliamo ovviamente delle 5-6 migliori offerte, quindi viaggiano comunque tra il 5 e il 5,5%, che storicamente è molto per basso. Noi operatori sono valori molto bassi e che in anni normali in cui non c'era un clima così negativo generavano positività e richieste di mutuo proprio per la sicurezza che davano nel lungo termine. E gli stessi variabili, pur se condizionati dagli spread sui mutui che sono ancora molto elevati, viaggiano intorno al 3%. Certo, un domani saranno più alti se gli Euribor si riprenderanno come è probabile, ma intanto permettono di avere una soglia abbastanza contenuta di ingresso. Certo, qualche statistica netta sugli importi medi richiesti ed erogati, perché poi da queste cifre partiremo anche per fare qualche esempio sul peso di questa riorganizzazione della detrazione fiscale legata al mutuo. Certo, ormai l'importo medio negli ultimi 4-5 anni è abbastanza costante, poi a riprova del fatto che è fin dal 2007 che il mercato immobiliare si è plafonato con i prezzi e poi ha teso anzi a scendere, e allo stesso tempo pesa anche un po' il plafonamento dei redditi, che sono l'altra leva di riferimento su cui la banca fa il calcolo per verificare che rata concedere. Quindi siamo sempre intorno ai 130.000 euro come mutuo medio. Allora, andiamo, stavo intanto distraendomi con alcuni messaggi perché effettivamente sono interessanti. Giuseppe dice: come fate a basare una scelta di 30 anni di un mutuo basandovi chiaramente sulle leggi finanziarie? Sarà comunque una lotteria. Giuseppe non ha fatto un'osservazione non pertinente. Effettivamente il mutuo per la casa e quindi anche la casa dei propri sogni sono scelte che si fanno chiaramente ragionando in un'ottica familiare, di bilancio familiare, quindi io immagino che in pochi o quantomeno non in tutti abbiano scelto il mutuo di riferimento, la casa dei propri sogni e il proprio mutuo sulla base del risparmio fiscale. Roberto, è una componente molto importante, però forse per i mutui molto elevati questo poteva essere anche un ragionamento che si faceva fino a qualche tempo fa. Beh, diciamo che purtroppo già di per sé, al di là degli ultimi limiti inseriti dalla legge di stabilità, il limite massimo di detrazione degli interessi passivi è purtroppo fermo a tanto tempo fa, perché è vero che era di 4.000 euro, ma non è altro che la traduzione in euro dei vecchi 7 milioni di lire, solo leggermente aggiornati alcuni anni fa, quando però i mutui duravano la metà del tempo di adesso, perché adesso i mutui durano mediamente dai 20 ai 30 anni e solo 10 anni fa duravano 10-15 come media, e soprattutto l'importo medio era dei vecchi 100 milioni di lire, cioè 50.000 euro. Abbiamo appena detto che adesso il mutuo medio è di 130, quindi il mutuo è quasi triplicato, e purtroppo in 10 anni i redditi delle persone non sono triplicati. Questo è il motivo per cui la durata media dei mutui è sempre più alta, quindi gli interessi che questi mutui maturano, pur se i tassi rispetto a 10 anni fa sono scesi, sono molto maggiori, e quindi già la detrazione di prima dei 4.000 e ancor più il tetto di adesso dei 3.000 riduce di molto questo risparmio. Quello che dice Giuseppe è vero, ma andrebbe letto al contrario, cioè nel senso che è vero che chi fa il mutuo non punta alla detrazione fiscale, però era una sorta di minima tranquillità, cioè minima sicurezza per i primi del fatto anni, esatto, no, di rimborso, che almeno una certa cifra si riusciva a detrarre. Se viene meno anche questa sicurezza del fatto che neanche quelle detrazioni sono più da considerare intoccabili, e che un domani addirittura, il giusto argomento che pone Giuseppe, ma l'incertezza del lungo termine, se rispetto a un investimento importante per la famiglia come quello della casa, che di lungo termine io non ho neanche più la sicurezza che un domani cambino, se non in meglio, ma in questo caso invece in peggio, le regole fiscali, diventano un'incertezza ancora maggiore. Diciamo che è tutto molto interessante, poi naturalmente ci dobbiamo confrontare con la dura realtà e con le novità che arriveranno. Allora, dottor Sironi, presidente della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, stamattina il PDL ha presentato, durante una conferenza stampa, naturalmente lo ha fatto il segretario Angelino Alfano, le sue proposte per modificare il provvedimento di stabilità. Siamo convinti, ha detto Alfano, che bisogna frenare quello che rischia di apparire un vero e proprio bombardamento fiscale. Noi non ci occupiamo mai di politica a salvadanaio, né tantomeno diamo ragione ad una parte politica piuttosto che ad un'altra. Sicuramente però qualche intervento, e qui lei mi deve dare un suo giudizio da tecnico sul tema della retroattività delle detrazioni, forse è opportuno. Se vuole anche fare un ragionamento legato al tema del mutuo, saremo ben contenti di raccoglierlo. Dottor Sironi. Sì. Grazie, sì, volentieri, anche perché, come ricordava prima l'ascoltatore e poi il dottor Anedda, il mutuo tipicamente è una spesa fissa di lungo periodo comunque, quindi ultimamente tra l'altro questo periodo si è allungato, come risulta dalle statistiche del dottor Anedda, da 20 a 30 anni, conseguentemente introdurre un aspetto di retroattività per limitare in qualche misura la detrazione fiscale rispetto al periodo di imposta in corso risulta essere particolarmente antipatico. È vero che chi stipula un mutuo non lo fa in ottica di ottenere una detrazione fiscale, è altresì vero che nel momento in cui lo fa, tra le variabili che tiene presente c'è la detrazione fiscale. Quindi l'aspetto della retroattività sicuramente è l'aspetto che particolarmente delicato sulla questione, perché oltre ai mutui ci sono delle norme di retroattività che introducono una franchigia di 250 euro anche sulla maggior parte delle deduzioni dalla base imponibile, quindi con alcune esclusioni evidentemente, l'idea che ci si può fare leggendo anche i calcoli che sono apparsi sulla stampa specializzata in questi giorni è che questa introduzione retroattiva riduca di molto il beneficio fiscale che potrebbe derivare dalla riduzione delle aliquote IRPEF di un punto dei primi due scaglioni, quindi in effetti pur mantenendo la necessità di avere i saldi invariati in questo disegno di legge, in questa norma, probabilmente una revisione sarà necessaria per eliminare gli aspetti, come ho detto prima, magari in maniera un po' tecnica, più antipatici, e questo sicuramente è uno di quelli. Più impopolari, soprattutto, direi che forse è il termine più adeguato per definire appunto le caratteristiche di questi interventi. Potrebbe saltare il tetto di 3.000 euro appunto sulle detrazioni, e questo pure sarebbe effettivamente un intervento opportuno. In ogni caso, vorrei con Roberto Nedda, abbiamo ancora un minuto di tempo prima di andare a effettuare la nostra prima pausa, vorrei appunto fare un esempio per capire quanto incide sull'IRPEF che ogni anno un nucleo medio familiare appunto deve versare alle casse dello Stato, lo sconto fiscale legato al mutuo, quanto incide oggi in termini chiaramente positivi e come potrebbe essere riorganizzata effettivamente l'imposta sulle persone fisiche qualora passasse il provvedimento appunto così come formulato attualmente. Sì, come diceva anche il vostro servizio introduttivo, la detrazione è sempre legata al 19% dell'IRPEF che viene pagata una volta, cioè diciamo con il vecchio limite dei 4.000 euro unicamente dedicato agli interessi passivi, quindi ipotizzando che non ci siano comunque altre spese da detrarre per la famiglia, la detrazione montava a 760 euro all'anno, almeno per tutti gli anni nei quali il mutuo produce un ammontare di almeno 4.000 euro. Certo, significa che magari qualcuno versava un po' meno IRPEF se aveva un reddito piuttosto alto, in altri casi qualcuno otteneva anche una restituzione se invece i redditi erano tranquilli, medi, no? Insomma, addirittura quindi una restituzione da parte del fisco che poteva anche rappresentare quasi un piccolo un'entrata in più. Sì, sicuramente, cioè in tutti i casi è comunque un IRPEF in meno pagata, quindi ho soldi che mi vengono restituiti, soprattutto se sono un dipendente che li recupero subito, o comunque una minore IRPEF che mi pesa rispetto alle liquidità che mi rimane in tasca. Con questa riduzione a 3.000 euro del tetto, ovviamente la detrazione scende a 570 euro, quindi ci sono 190 euro in meno, cioè il 19% dei 1.000 in meno che ci sono, ma soprattutto è molto importante quello che faceva notare adesso il dottor Sironi, che ci sono altre spese per le quali sono state a loro volta inseriti dei plafond, delle soglie di franchigia di 250 euro, quindi voci che di per sé non sono legate al mutuo, ma che tante famiglie invece sostengono e che quindi peseranno ulteriormente in termini negativi di minore liquidità disponibile sui bilanci delle famiglie stesse. C'è chi ci chiede anche come verrà gestita e trattata la polizza vita, che mediamente viene obbligatoriamente in certi casi associata appunto alla sottoscrizione del mutuo, soprattutto quando questa è di importo molto elevato e di durata molto lunga. E beh, anche questa chiaramente dovrà essere necessariamente riorganizzata dal punto di vista fiscale, poi vi spiegheremo come, naturalmente, dal nuovo pacchetto fiscale. Intanto, per certi versi, per chi ha un mutuo sottoscritto da qualche anno a questa parte, magari con un bel tasso variabile, adesso sicuramente la rata è più leggera, questa è una buona notizia. Per chi sottoscrive adesso, a meno che non abbia un bel pacchetto da anticipare di quattrini per comprare appunto la sua casa, è difficile che la banca eroghi l'importo integrale appunto che serve, quindi diciamo si sono un po' ridotte le percentuali che le banche erogano, costano un po' di più rispetto al passato, i tassi sono molto bassi, sono gli spread applicati appunto dalle banche che continuano ad essere un po' altini, però insomma questo non significa che molte banche non continuino a fare il loro dovere, però sono un po' meno generose del passato. In tutto questo che cosa succede? Succede che chi sta accendendo un mutuo per l'abitazione principale o l'ha già avviato comunque negli ultimi anni si deve dimenticare di chiedere al fisco sconti per l'assicurazione sulla vita, per le spese di istruzione dei figli o quelle per l'affitto dello studente fuori sede, perché gli interessi passivi del mutuo bastano ed avanzano ad esaurire il plafond da 3.000 euro che le nuove regole applicabili già ai redditi di quest'anno appunto prevedono se il Parlamento accetterà il boccone amaro peraltro della retroattività. Tutte queste novità sono contenute nel disegno di legge di stabilità, praticamente la nuova manovra finanziaria del governo. Stiamo cercando di capire appunto quanto meno generoso il fisco sarà per chi ha un mutuo. Allora, dottor Sironi, tra l'altro nostro dottore commercialista, appunto, che ci sta aiutando un po' a capire come funzionerà anche il tetto dei 3.000 euro. Se rimanesse la formulazione attuale, anche se mi pare di capire, potrebbe anche cambiare, no? Questo punto della norma, questo tetto dei 3.000 euro sulle detrazioni potrebbe anche saltare, ma se rimanesse invariato, secondo la formulazione iniziale, io le faccio un esempio, sì. Poi mi dica lei se ho capito bene. Praticamente io, ammettendo che ho iniziato un mutuo da 5 anni, ancora pago interessi complessivi nel corso di un anno, butto lì una cifra giusto per capire, di 5.000 euro, no? Significa che praticamente oltre i 3.000 euro ho questo risparmio del 19% ed oltre non posso andare, l'ho banalizzata troppo la questione? No, direi di no. Qua è interessante anche vedere come rispetto al disegno di legge attualmente in essere ci sia attualmente, anche se in parte ormai è stata fugata, una incertezza sull'applicabilità, su quale grandezza si vada ad applicare il tetto dei 3.000 euro, perché da una parte si dice si applica sul totale delle spese potenzialmente detraibili per i soggetti che hanno un reddito complessivo superiore ai 15.000 euro, dall'altra parte si dice si applica sulle detrazioni che evidentemente vado a fare. Ora è chiaro che nel primo caso risulta particolarmente penalizzante, perché nell'esempio da lei fatto, nel primo caso andrei a prendermi una detrazione massima consentita di 3.000 e quella sarebbe, mi plafonerebbe, se mi passasse il termine, perdendo 5.000. Nel secondo caso invece la somma delle detrazioni dovrebbe arrivare a 3.000. Sulla base dell'interpretazione prevalente che c'è in questo momento, sembrerebbe però che la prima interpretazione sia quella corretta e quindi particolarmente negativa. È auspicabile che questo tetto di 3.000 euro, che opera per la stragrande maggioranza delle detrazioni contenute nel testo unico, venga proprio eliminato. Un discorso, secondo me, è lasciare la franchigia, cioè il taglio lineare dei 250 euro, e può anche avere una sua logica in termini di incidenza sulle spese complessive. Il plafond dei 3.000 euro pare particolarmente penalizzante. Tra l'altro ho fatto un esempio forse un po' stravagante, perché 5.000 euro di interessi pagati nel corso di un anno significa che complessivamente la rata, perché questa è solo una componente della rata, la spesa per interessi annetta, poi c'è la spesa del rimborso appunto di capitale, che è chiaramente un po' più alta nel paragone, non se siamo nei primi anni appunto di restituzione, però effettivamente 5.000 euro di interessi pagati in un anno potrebbero corrispondere a che rata complessiva? In realtà sembrano un sacco di soldi, ma purtroppo, per come funziona il meccanismo del piano di ammortamento, che come dicevi tu adesso applica quote costanti, ma all'inizio gli interessi pesano di più, sì. E man mano la rata è sbilanciata a favore degli interessi e poi via via invece aumenta la quota capitale. Ma per fare un esempio, diciamo, partendo da un tasso fisso che quindi non cambia nel corso del tempo, facendo un mutuo attuale adesso dai famosi 130.000 euro medi per 20 anni, quindi senza neanche andare ai 30 anni, il primo anno si pagano più di 7.000 euro di interessi. Ecco, quindi non ho fatto poi proprio un'ipotesi peregrina. L'esempio dei tuoi 5.000, bisogna aspettare il nono anno per pagare solo 5.000 euro di interessi. Quindi questo fa già capire quanto già la soglia precedente di 4.000 euro, il discorso che facevamo prima, fosse purtroppo molto contenuta, perché non stiamo parlando di importi eccezionali di mutuo, stiamo parlando di mutui medi della popolazione italiana, delle famiglie italiane, per comprarsi la propria casa. E già allora, purtroppo, con l'ordinamento precedente, con la regola precedente, lo Stato ti permetteva di recuperarne solo una certa parte. Addirittura adesso, se ci spostiamo ai 3.000 euro con il mutuo che dicevamo poc'anzi, bisogna aspettare addirittura il 15° anno per riuscire a detrarre interamente gli interessi. Quindi praticamente quando il mutuo è quasi finito. Si capisce quindi anche da questo quale sia la portata della ulteriore riduzione di una detrazione che, ripeto, di per sé noi da anni abbiamo segnalato questa cosa, ma poi purtroppo le istituzioni pensano non hanno avuto grande sensibilità sull'argomento. Enzo da Milano inaugura le nostre telefonate di oggi. Enzo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Non so se siamo in tema, comunque proviamo. Sempre un mutuo, Io ho un mutuo, ho acceso un mutuo legato all'Euribor. Sì. E adesso la banca mi ha telefonato parecchie volte per dirmi che l'Euribor sta aumentando se voglio accendere un'assicurazione. Quale Euribor si è inventato questa banca che sta aumentando? Perché non ci risulta assolutamente. Loro prevedono un aumento. Infatti, quello che lei mi dice, diciamo, io... L'ha già contestato. Come la maggior parte degli italiani, delle banche, ho una fiducia che è sotto i piedi, per dire, con rispetto parlando per le banche, però... Comunque, mi hanno detto l'Euribor sta per aumentare, aumenterà, i tassi aumenteranno sicuramente, è matematico. Vuole accendere un'assicurazione per mettersi al riparo? Allora, io sto esitando perché non mi fido di quello che dicono le banche, scusate, ma... Allora Enzo, del domani non v'è certezza, come diceva una personalità famosa, sicuramente in prospettiva i tassi, sperando anche che l'economia mondiale riprenda il sentiero della crescita, aumenteranno, non è una questione che si verificherà domani, quindi in un'ottica di protezione generale la banca può anche avere un senso che le faccia una proposta di questo tipo, però metterle tutto questo, mi viene da dire pepe al sedere, mi dà un po' fastidio. Roberto Anedda, cosa ne pensi? E, tra l'altro è un mutuo che è già partito ed è anche abbastanza strano che la banca ci ripensi in un secondo momento, non abbia insistito magari al momento della sottoscrizione, quando è il momento centrale in cui l'offerta commerciale si intensifica, no? Da parte della banca. Sì, no, i dubbi di Enzo, giusto? Sì. Sono assolutamente corretti, nel senso che innanzitutto bisognerebbe poi vedere da quanti anni è in essere il mutuo e quanti anni ancora davanti abbia di vita. È sicuramente vero che rispetto alla situazione attuale, in cui ricordiamo l'Euribor vale veramente... Siamo a raso terra 0, praticamente. 10, esatto, sì. Cioè quasi sotto il tappeto, 0,10-0,20% delle soglie che solo un anno e mezzo fa nessuno si sarebbe mai immaginati, sono così basse che chiaramente non sarebbe ragionevole ipotizzare che nel lungo termine, quindi nel tempo di un mutuo che è anche pluridecennale, possano rimanere sempre così. Certo. Anche perché altrimenti avremo problemi ben più seri in termini economici. Ma posto che un domani l'Euribor torni su livelli normali, diciamo così, quindi legati a una situazione economica diversa, occorre anche capire anche quanto si può ipotizzare che salga e quanto quella assicurazione che la banca sta proponendo a Enzo lo tuteli da questo aumento, perché un conto è se l'assicurazione mi garantisce che l'Euribor che mi verrà applicato al mutuo rimane quello di adesso. E allora uno potrebbe dire, beh, insomma, interessante, perché ho molte probabilità che l'Euribor un domani sia più alto, valuto quanto mi costa questa assicurazione, vedo cosa mi costerebbe invece un aumento dell'Euribor per il mio mutuo rimanente. Se viceversa questa assicurazione scatta, come avviene in genere per queste protezioni, solo da una certa soglia, certo, che magari potrebbe essere anche di parecchi punti, infatti, sopra, intanto fino a che io non arrivo a quella soglia, gli interessi li pago comunque. E nel frattempo pago anche l'assicurazione. A quel punto quindi bisognerebbe fare un calcolo più dettagliato, approfondito, per capire, difficile farlo in termini probabilistici, ma quanti interessi potrei risparmiarmi da quella soglia in su, vedendo anche lo storico dell'Euribor negli anni passati, e perché il dubbio mio è che verrebbe fuori che alla fine il costo sarebbe, certo, semplicemente aggiuntivo. Un'offerta che arriva in maniera così superficiale ovviamente non è neanche da accogliere, prendere in considerazione, no, deve farsi fare un bel calcolo. Sì, esatto, dati, Enzo, se vuole mandarci qualche dettaglio in più, piano di ammortamento, a che punto è, quanto ha pagato, che tipo di tasso ha, quanto mutuo residuo anche ha, esatto, da che soglia scatta. E quanto le costerebbe anche questa assicurazione. Esatto. Enzo, ci racconti un po' che offerta imperdibile le sta facendo la banca. Dottor Sironi, ho una domanda per lei da parte di un ascoltatore, poi naturalmente anche qualche chiarimento relativo alle polizze associate ai mutui, quanto queste prevedevano di risparmio fiscale, quanto potranno essere meno, anche in questo caso, quanto potrà essere meno incentivante sottoscriverne. Già adesso non le facevamo volentieri quelle attaccate al mutuo, no? Adesso con il minor risparmio fiscale dovremo dare ancora un po' più di battaglia forse alla banca o all'assicurazione che ce la propone. Umberto da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Volevo chiedere questo, la soglia dei 3.000 euro di interessi, diciamo, sui quali calcolare la detrazione, è per singolo contribuente o per mutuo? Le spiego, io e mia moglie abbiamo un mutuo cointestato e presentiamo normalmente il 7.30 una dichiarazione congiunta. Volevo capire se, se fa cumulo oppure se diventano 6.000 in questo caso. Grazie Roberto, ottima domanda, pertinente. Dottor Sironi. Sì, è un'ottima domanda, nel senso che, come è già stato ricordato in apertura di trasmissione, attualmente per quanto riguarda nello specifico il mutuo c'è un limite di 4.000 euro, che è un limite che va calcolato per esempio sull'immobile o nel caso di contitolarità del mutuo, e bisognerà capire poi come verrà coniugato questo limite, che comunque non viene abrogato per effetto di DL di stabilità, perché ricordiamo che comunque il limite dei 4.000 euro rimane in vigore per i soggetti che hanno un reddito complessivo inferiore o uguale a 15.000 euro, e comunque non viene abrogato, non c'è nessuna abrogazione esplicita. E bisognerà vedere appunto come si coniugherà questo limite con i 3.000 euro. Attualmente si potrebbe ritenere, ma queste poi sono speculazioni, bisognerà aspettare poi il provvedimento definitivo, che il limite di 3.000 euro sia individuale, nel senso che i 3.000 euro vanno sul monte detrazioni, escluso le spese sanitarie, cui un soggetto ha diritto, un soggetto che ha un reddito superiore ai 15.000 euro ha diritto. Quindi è da ritenere che i 3.000 euro siano per singolo contribuente. Evidentemente una strutturazione possibile della norma potrebbe essere quella per cui si dice mutuo con titolarità 4.000 euro massimo di interessi, poi all'interno della propria posizione soggettiva le detrazioni complessivamente spettanti a ciascuno non possono essere superiori al plafond dei 3.000 euro. Siamo però ancora nell'ordine dell'utilizzo del verbo condizionale, non possiamo ancora dare una risposta definitiva ad Umberto, non appena avremo la norma certa ci ritorneremo. Allora, prima di rifarle la domanda, dottor Sironi, sulle polizze associate ai mutui, volevo ritornare magari con un altro esempio, tipo con Roberto Nedda. Sottoscrivo oggi un mutuo da 130.000 euro per l'acquisto appunto della mia prima abitazione, che ammettiamo ne vale 200.000. Sono sempre, faccio dei numeri tondi per capirci meglio. La banca naturalmente chiede di essere tutelata e mi obbliga con una moral suasion di sottoscrivere anche contestualmente, obbligatoriamente, intanto la polizza scoppio incendio, no? Se non ricordo male, spesso invitano anche a sottoscrivere la polizza vita, che chiaramente se viene a mancare il titolare del mutuo qualcuno deve restituire questo importo se non c'è più la garanzia della restituzione del rispetto dell'impegno finanziario. Su un importo di questo tipo, in genere la polizza quanto vale? Quanto può valere? Cioè, è difficile dirlo, perché trattandosi di polizza vita dipende non tanto, o meglio non solo, dall'importo del mutuo, ma anche innanzitutto dalla durata, valore dell'abitazione, ma poi soprattutto dal profilo della persona, del contraente. Perché essendo una polizza vita cambia molto il prezzo a seconda che si tratti di un uomo o di una donna, dell'età che ha, della sua situazione di salute. Cioè, per dire, tra un uomo di 40-45 anni e magari la consorte, quindi donna magari più giovane, diciamo 35, ci può essere anche un costo doppio per l'uomo. Se poi addirittura fosse fumatore non ne parliamo, si parla veramente di, purtroppo, giustamente per certi versi, date le statistiche, di multipli. Quindi è veramente abbastanza difficile fare una valutazione. Diciamo che si tratta di polizze che su mutui, appunto su queste cifre medie per durate dai 20 ai 30 anni, possono costare anche sopra i 15.000 euro complessivi, considerando magari appunto un'età un po' avanzata del richiedente, una durata trentennale della, perché è come sottoscrivere una polizza vita a tutti gli effetti per una durata di vita lunga, e quindi chiaramente puramente su tabelle attuariali delle assicurazioni, questo porta il costo della polizza a sollevarsi notevolmente. E chiaramente poi può dipendere anche dalle convenzioni della singola banca. Quindi certo. Adesso ci sono alcune regole. Ecco, allora, ammettendo che l'importo sia questo, dottor Sironi, fino a questo momento che tipo di risparmio fiscale avevo su questo prodotto legato al mutuo? Che cosa potrebbe cambiare? Dunque, fino ad ora la situazione era la seguente: per i contratti, quelli incendio o comunque contratti di assicurazione sull'immobile, si ritiene che nella pratica questi non godano di nessuna detraibilità, in quanto non rientrano nella categoria di oneri accessori agli interessi o comunque alle spese detraibili sulla base del 19%. Diversamente, i contratti di assicurazione che vengono stipulati per rischio morte o invalidità permanente per un tasso di invalidità non inferiore al 5%, possono attualmente è, sulla base del sistema attuale, essere detraibili al 19%, ma hanno un importo massimo su cui calcolare il 19% che è di 1.291,14 euro, vecchi 2.500.000 lire. Bisogna fare attenzione perché poi il contenuto delle polizze è vario in questo caso, e se la polizza ha un contenuto finanziario, il contenuto finanziario non gode di alcuna detrazione, quindi l'intento del legislatore è stato quello di agevolare la copertura da rischi morte e invalidità permanente. Immaginando che ci fosse anche una componente che protegge il contraente da un aumento dell'Euribor, diciamo che quella parte lì non verrebbe, non potrebbe essere soggetta a detrazione. Esattamente. E poi è necessario, qui chiudo, nel caso in cui ci sia una polizza che ha questo contenuto misto, ottenere una certificazione dalla banca che dia separatamente quanti premi, spezzetti la quanta cifra, parte del premio si riferisce alla copertura a rischio morte in verità e quanta parte eventualmente si riferisce alla copertura di rischio. Grazie molto a Massimiliano Sironi e a Roberto Aned. Alcuni ascoltatori ci stanno scrivendo rispetto all'ascoltatore che ci ha raccontato che la banca gli ha sottoposto questa assicurazione per proteggersi dall'eventuale aumento dell'Euribor. State attenti, molti ci dicono perché la banca ha proposto un derivato. E Ale, grazie a tutti, a Marco Lombardo, a tutti i ragazzi della tecnica che come sempre mi assistono tutti i giorni, e a tutti buona giornata. We'll be right back.